Il 27 gennaio di 60 anni fa l'Armata Rossa liberava il campo di concentramento di Auschwitz. Per celebrare questo anniversario, per non dimenticare gli orrori delle guerre, per smentire il revisionismo storico sull'Olocausto, non basta un giorno dedicato alla memoria. Quest'anno cade anche un altro importante 60° anniversario, quello della liberazione dell'Italia dalle truppe nazifasciste. Senza la consapevolezza di ciò che le generazioni precedenti hanno vissuto, di come la nostra società civile affrontò le estreme conseguenze di un'occupazione militare e delle deportazioni etniche e religiose, viene a mancare un elemento fondamentale per la via alla maturità della nostra attuale società civile. Ne parliamo con Massimo Rendina, presidente dell'ANPI del Lazio, Ascanio Celestini, autore ed attore di numerosi spettacoli incentrati sul tema della conservazione e diffusione della memoria attraverso il teatro, e Giovanni Contini, della Sovrintendenza Archivistica della Toscana, che come esperto di fonti orali ha recentemente lavorato alla Shoah Foundation di Los Angeles, l'istituto di conservazione e archiviazione delle testimonianze dirette sull'Olocausto, nato grazie anche agli incassi del film di Steven Spielberg, Schindler's List. Professor Contini, a Los Angeles la Shoah Foundation è forse l'esempio più grande di archivio audio-video di testimonianze sull'Olocausto. Quali sono le azioni che la fondazione intraprende? Dunque, io sono andato lì come funzionario del Ministero per i Beni delle Attività Culturali e come esperto di fonti orali. Come lei sa, la fondazione Shoah Foundation è una fondazione che ha raccolto alla fine degli anni 90 un numero impressionante di interviste con persone che erano sopravvissute allo sterminio, soprattutto ebrei, anche alcuni zingari, pochissimi omosessuali, insomma, si sono concentrati su quelle figure che sono state perseguitate per quello che erano, non per quello che avevano fatto, quindi non hanno intervistato, per capirsi, gli oppositori politici, che pure erano numerosi nei campi di sterminio. E in queste interviste, che sono 53.000, se uno dovesse sentirsele tutte, credo che, ho fatto una volta un calcolo, occorrerebbero credo circa qualcosa come 60 anni lavorando 12 ore al giorno senza mai prendere un momento di ferie. Quindi sono proprio degli archivi audiovisivi di dimensioni industriali e noi eravamo lì per indicizzare le 450 interviste di chi ha parlato in italiano. Quindi non degli italiani, perché ci sono italiani che hanno parlato in altre lingue e quindi non sono in questo fondo, ci sono invece polacchi, cechi, ungheresi che hanno parlato in italiano e sono compresi tra queste 450 interviste. E poi dovevamo anche suggerire nuove parole chiave per il thesaurum che serve all'indicizzazione delle interviste. Questo è stato il mio compito durante i 9 mesi che in varie riprese ho passato a Los Angeles, alla Shoah Foundation. Professor Contini, quali elementi sono emersi per conoscere la realtà dei campi di concentramento nazisti ed in particolare Auschwitz, grazie alle fonti audio-video della Shoah Foundation? Sì, cioè le novità sono tante, sono piccole novità, non tanto su Auschwitz per esempio, ci sono delle novità molto più consistenti relative a punti, luoghi dello sterminio come per esempio la Transnistria, che era appunto una zona pianeggiante sferzata da venti gelidi oltre il fiume Dniester. Che vide la morte di decine di migliaia di ebrei senza neppure utilizzare camere a gas, furono semplicemente lasciati morire di inedia e non c'era documentazione di questo settore della Shoah e tra le testimonianze della Shoah Foundation invece ci sono numerose testimonianze di persone che sono sopravvissute, numerose, pochissime persone sono sopravvissute, ma insomma queste sono una documentazione storicamente rilevantissima perché non ci sono praticamente altre fonti su quella cosa lì. Sulla liberazione di Auschwitz io ho trovato molto interessante la testimonianza di Shlomo Venezia, che comunque è conosciuto, ha parlato spesso in televisione, in programmi, servizi. Lui era un membro del Sonderkommando, quindi della squadra speciale che si occupava di portare i prigionieri alle camere a gas e poi di pulire le camere a gas e trasportare i cadaveri nei crematori. Insomma, la sua è una testimonianza veramente spaventosa, insomma. Come si sa, insomma, i rappresentanti dei Sonderkommando venivano uccisi con grande meticolosità dai nazisti dopo pochi mesi, perché non volevano lasciare testimoni, erano i testimoni più pericolosi. Nel caso del Sonderkommando, soprattutto dei greci, degli ebrei greci di Salonicco, quindi di Shlomo Venezia e di suoi cugini, in realtà loro furono nel caos che prese Auschwitz quando arrivarono i russi. Alcuni dei Sonderkommando riuscirono a fuggire e si mescolarono col resto dei prigionieri. E normalmente i rappresentanti dei Sonderkommando erano molto odiati dagli altri prigionieri e furono riconsegnati dagli SS, che li chiedevano per ucciderli. Ma nel caso degli ebrei greci ci fu un rifiuto da parte della loro comunità di restituirli, e prevalse la solidarietà, diciamo così, etnica, nazionale, rispetto alla polemica nei confronti di chi aveva svolto un lavoro che era stato svolto pena la morte. Non erano tutti condannati, erano tutti dei lavoratori schiavi, come ben si sa, quindi non erano in nessun modo responsabili del lavoro che erano stati costretti pena la morte a svolgere. E quindi noi abbiamo appunto le descrizioni che loro fanno della loro vita in questa squadra terribile, questa squadra speciale, questo Sonderkommando che si occupava appunto della gassazione dei prigionieri. Chi da anni è impegnato come artista per conservare la memoria storica è Ascanio Celestini. Attraverso i suoi ultimi spettacoli ha intrapreso un vero e proprio percorso didattico teatrale. Come mai? Vedi un rischio del ripetere di quei giorni drammatici o cos'altro? Ma non è che quella storia sugli anni 30 e 40, 20, 30 e 40 si sta ripetendo proprio pari pari, insomma, in questi anni. Però la stiamo ripercorrendo senza nessun senso critico. E ieri mattina mi è capitato di andare a fare parlare, incontrare dei ragazzi delle scuole medie e superiori. Vedevano gli interventi dei rappresentanti dell'AMPI, dell'ANED, come persone calate arrivate dallo spazio, da Marte, insomma, come marziani, al punto che a un certo punto un ragazzo ha detto a un altro: ma che significa ANED? E quello ha detto: beh, AN sarà l'Alleanza Nazionale, gli ha detto. E adesso voglio dire, non è che noi siamo tenuti a sapere che vuol dire ANED, cosa vuol dire AMPI, non è questo il punto. E il problema è che questi ragazzi non sanno neanche che vuol dire partigiano, che significa fascista. E questo è pericoloso. Noi se poco poco potessimo ripercorrere la storia, fossimo in grado di ricordarci quello che ci è successo 60 anni, 70 anni fa, ci renderemmo conto che drammaticamente questi due periodi si rassomigliano come due periodi tragici che uno però l'abbiamo vissuto, uno lo stiamo rivivendo. Massimo Rendina, quale iniziativa l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha sviluppato per la conservazione della memoria, soprattutto con le scuole italiane? Per molti anni gli esami non consideravano la storia se non fino alla prima guerra mondiale. Perché? Ma perché la classe dirigente di allora, fino a una quindicina d'anni fa, pensava che ricordare quel periodo così terribile per il nostro paese, anche per la divisione tra italiani, per quello che era accaduto, fosse materia da lasciare agli studiosi, come dice anche oggi con, secondo me, un senso anche provocatorio, diciamo la verità, il Presidente del Senato Pera e altri, cioè lasciamo agli studiosi questo, perché altrimenti si potrebbero rinverdire odi sopiti che ormai debbono essere dimenticati, insomma, no? Cioè, noi non vogliamo dimenticare niente, è il popolo italiano che non vuole dimenticare niente. Si tratta però di ripensare al bene che abbiamo, quello della libertà, della democrazia, del potersi riunire, del poter così essere a casa, sentire magari a una certa ora di notte il campanello che squilla e pensare che sia un figlio o un nipote che ha dimenticato la chiave, non la polizia fascista o nazista che ti viene a prendere. Mi pare che questo sia già un risultato straordinario per una persona che ha vissuto quel periodo. Ebbene, ricordare è una necessità, insomma, non è soltanto così una scelta, è un filo che lega l'antifascismo alla resistenza, perché nella resistenza c'è stato l'incontro che il nuovo fascismo, la gente che è esasperata dalla guerra, dai disastri cui l'aveva condotta il regime, in qualche modo l'8 settembre si unisce con l'antifascismo delle galere, quello sparuto antifascismo delle galere, del confino, eccetera eccetera, al quale l'aveva ridotto il fascismo, naturalmente. Perché dire che l'Italia improvvisamente cambia idea, che i fascisti diventano antifascisti, no, fu anche un processo lento e un processo di autoidentità importante. Noi abbiamo istituito un centro telematico di storia contemporanea, che basta vedere nel portale www.storia21esimosecolo.it, si troverà moltissimo materiale. Cioè, noi abbiamo creato un centro per via telematica, qualsiasi cittadino, e sono moltissimi nel mondo, possono approfondire e conoscere i temi del fascismo, dell'antifascismo, guerra di Spagna, guerra di Etiopia, cioè le avventure belliche di Mussolini, e anche avere un corredo bibliografico estremamente importante. Adesso aggiungeremo anche una cineteca, una fototeca alla nostra attività a disposizione, che tutto sarà trasferito in via San Francesco di Sales 5, dove tra un anno, si spera, potrà essere funzionante il centro che sarà la casa della storia e della memoria, ovvero della memoria e della storia, non sappiamo ancora come sarà definito il titolo, dove ci saranno cimeli, biblioteche, cineteche, fototeche a disposizione del cittadino per la sua propria così ricerca delle fonti della propria identità. Ecco, la memoria orale è un fatto estremamente importante. Ci sono due centri, anzi più di due o tre in Italia, ma uno a Roma molto molto molto ben dotato, è il centro, il Circolo Giovanni Bosio, dove si riuniscono, sono in una apposita deposito, chiamiamolo così, di voci, le testimonianze non solo dei protagonisti dell'antifascismo, della resistenza eccetera, ma anche testimonianze di gente comune che ha assistito ad avvenimenti attraverso i loro ricordi, cioè è la memoria viva orale e anche filmata in alcuni casi, no? E perché? Perché c'è una tendenza storiografica che prende sempre più forza di vedere la storia come incontro sul piano così della memoria, sul piano della raccolta di documenti eccetera, di varie fonti, comprese le testimonianze. Ecco, questo centro è proprio dedicato alle testimonianze. Ascanio Celestini, da dove parte l'intuizione artistica della conservazione della memoria attraverso spettacoli teatrali? Cos'è in realtà la memoria storica? Sai, la memoria è una cosa che non esiste, nel senso non è tanto importante la memoria, anzi forse la memoria è la cosa meno importante in tutto il discorso sulla memoria. Importante secondo me il ricordare, perché tutti abbiamo una memoria, il problema è che non ci abbiamo normalmente i tempi e i luoghi per ricordare, per dar senso al ricordo, e più che alla memoria come un oggetto che viene archiviato, a me sembra interessante proprio l'azione del ricordare come azione vera e propria. E poi in seguito al ricordo, al ricordare, è fondamentale trovare dei momenti dove questo ricordo può essere comunicato, e quindi trovare anche poi la maniera di arrivare alla fase successiva, che è il raccontare la propria memoria. E tutto questo qui è abbastanza difficile, praticamente quasi impossibile, insomma, nel sistema di comunicazione che viviamo, dove normalmente, insomma, la notizia che dovrebbe riportare l'evento è già costruita prima ancora che l'evento succeda, perché il telegiornale o il radiogiornale sta in un palinsesto, c'ha una durata, c'ha delle regole, per cui alla fine che una cosa succeda o non succeda, il telegiornale si fa lo stesso. Quando uno racconta una storia, non la può raccontare come se quella cosa fosse accaduta quel giorno e prima e dopo non ci fosse nient'altro. E quindi io racconto Radio Clandestina raccontando il 23, 24 marzo del 44, ma iniziando la storia dalla fine dell'Ottocento, per far capire che cos'è Roma, che cosa sono i quartieri, le borgate di Roma, che cosa è stato, che cosa sono state le guerre che ci sono state prima, quelli che stavano in Africa, in Spagna. Alla stessa maniera noi dobbiamo cercare di capire che la memoria è una cosa che ci serve ora, adesso, non ci serve per capire quello che è successo 50 anni fa e andare bene a scuola, fare un'interrogazione, passare un esame. E anche quello, figuriamoci, ma, insomma, però sicuramente ci serve per capire quello che ci sta succedendo intorno. In una giornata della memoria di qualche anno fa, Haider era venuto a Roma, Haider era il governatore della Carinzia, e gli ebrei quel giorno, i negozianti ebrei, tennero spente le luci dei negozi. Haider commentò sta notizia dicendo: vedi, sono ebrei, hanno voluto risparmiare sulla corrente elettrica. Quel giorno io ho fatto un incontro, il 27 gennaio lì, organizzato dal giornale Liberazione a Roma, all'Alfeus, e insieme a me c'era Marisa Muso, che era una partigiana, una donna partigiana morta 2 anni fa. E Marisa ha detto: io sono vecchia, e questa frase me ne ricorda un'altra. Nel 38, l'indomani dell'emanazione delle leggi razziali in Italia, dopo che Mussolini aveva fatto questa bella trovata, insomma, delle leggi razziali, e l'editore ebreo Formigini, modenese, si suicidò buttandosi dalla torre del Duomo di Modena, dalla ghirlandina, e un fascista, un gerarca fascista che era Farinacci, commentò questa cosa dicendo: lo vedi questo ebreo, anche nel suicidio ha voluto risparmiare una pallottola. Queste due frasi sono molto, molto simili, si rassomigliano tanto. Che cosa voleva dire Marisa Muso dicendo: io sono vecchia e questa frase me ne ricorda un'altra? Che la memoria serve proprio a questo, cioè io non so quello che succederà domani, dopo che questa frase è stata detta, ma so quello che è successo dopo il 38, so che cosa sono state le leggi razziali, a che cosa hanno portato. La memoria ci serve proprio per cercare di interpretare il presente alla luce anche di quello che già c'è successo, ma se noi ce lo dimentichiamo, ma oltre che vabbè, allora la storia non ci serve veramente a niente, ma siamo condannati a ripetere gli errori, a ripercorrere i drammi. Grazie ai nostri ospiti, le cui testimonianze ci hanno ricordato come la conservazione della memoria storica debba essere quotidiana e continuata nel tempo, e non relegata a soli anniversari. Lorenzo Anania, amisnet.org, con il contributo tecnico di Leopoldo Calabria.